Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, nonché naturalmente potete ascoltarci sul web 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica naturalmente. Poi potrete ascoltarci anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare dal sito radiocittafujiko.it. E recentemente in espansione anche potete ascoltarci tramite DAB. Innanzitutto buon anno a tutti, un prosperoso, come si suol dire, 2025 a tutti e prima trasmissione dell'anno per quel che riguarda questa trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club. E come oramai da tempo immemore, la prima trasmissione dell'anno per quel che mi riguarda è il best dell'anno precedente, quindi oggi ci ascolteremo quelle che secondo me sono state le migliori uscite discografiche live naturalmente del 2024. E sarà un best un po' anomalo quest'oggi, perché solitamente, anzi sempre, inizia con quello che secondo me è stato il miglior album live dell'anno precedente, ma quest'oggi il miglior album live dell'anno precedente, contrariamente a quello che succedeva di solito in cui era un album che vi avevo già proposto come novità, questo album è uscito il 13 dicembre e non ho fatto in tempo a proporvelo come novità, lo farò la prossima settimana. Oggi c'è un'anteprima, perché è proprio quell'album che si chiama Songs of a Live World, è il best di quest'anno, dello scorso anno, scusate, adesso dirò 3000 volte 2024 e quest'anno, è il best del 2024. E naturalmente avrete capito che sto parlando dei Cure. Il 1 novembre scorso i Cure hanno pubblicato, dopo un periodo lunghissimo di fermo discografico, hanno pubblicato Songs of the Lost World, che molti giornali musicali e non solo hanno giudicato come miglior album dell'anno to Cure. Mentre il primo novembre stesso, la sera naturalmente, i Cure hanno suonato al Troxy un concerto, anche loro dopo diverso tempo che non ne facevano più, un paio di anni, un concerto in cui hanno proposto nella prima parte tutto Song of the Lost World, poi dopo hanno proseguito per altre due ore e mezzo, insomma, come al solito i Cure fanno concerti lunghissimi, e questa prima parte, cioè la riproposizione di Songs of the Lost World, è stata pubblicata appunto il 13 dicembre e si chiama, come vi ho detto, Songs of a Live World, Troxy London 2024, ma è scritto MMXXIV, che sarebbero i numeri romani, 2024. E come dicevo, secondo me è un album veramente splendido, come del resto lo è anche quello in studio. Questo è un po' più grezzo, un po' più spinto in certe situazioni, ed è una cosa veramente spettacolare. Lo ripeto ancora una volta, si chiama Songs of the Live World, il primo brano che vi faccio ascoltare è questo che si chiama All I Ever Am. Loro sono i fantastici Cure, del quale non vi dico niente perché tanto saprete già tutto. All right. si chiama All I Ever Am. Loro sono i Cure, naturalmente, con l'album dell'anno 2024 per quel che mi riguarda. Sono le stesse canzoni, come dicevo, di Song of the Lost World. L'album però si chiama Songs of a Life World ed è semplicemente splendido. Questa è la mia opinione personale, sindacalissima, ma niente da dire. Questo album poi sarà la mia proposta della prossima settimana. Ve lo proporrò, faremo una disanima completa di questa, ho detto disanima, va bene, disamina completa di questo album la prossima settimana, dove ve lo proporrò come novità, anche se purtroppo non è più tanto tale. Ed essendo i Cure inglesi, la prima parte della trasmissione sarà dedicata al best della discografia live britannica, ad iniziare da due mostri sacri. Il primo si chiama semplicemente Eric Clapton. Voi direte: ancora un album live di Eric Clapton? Sì, ancora un album live di Eric Clapton, perché è per una buona causa. Infatti questo dischetto, che si compone di un CD e di un Blu-ray, si chiama To Save a Child, an Intimate Live Concert. È stato pubblicato il 12 luglio e tutti gli introiti derivanti dalla vendita di questo album, che non è fra l'altro neanche tanto lungo, andranno ad un'associazione che aiuta i bambini di Gaza, che, come certamente saprete meno di me, non è che stiano tanto bene, per usare un eufemismo. L'album è stato registrato all'RD Studios di Londra l'8 dicembre del 2023. Comprende, come al solito, canzoni autoctone scritte da Eric Clapton himself e anche grandi classici del blues, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare adesso, che si chiama Nobody Knows When You're Down and Out, un brano bellissimo di Jimmy Cox, che adesso ci andiamo ad ascoltare. Eric Clapton. Champagne and wine. Then I began to fall so low. Lost all my good friends, had nowhere to go. I get my hands on a dollar again, I'll hang on to it till that eagle grin.

che il 12 luglio, lo stesso giorno in cui Eric Clapton pubblicava To Save a Child, pubblicava questo live d'Orange Field, Be Just and Fear Not. Orange Field è la scuola in cui Van Morrison ha fatto praticamente, chiamiamole, le medie, che aveva dei grossi problemi finanziari, e Van Morrison, anche se poi la scuola l'ha abbandonata, colpito da questo fatto, ha organizzato due concerti, esattamente il 22 e il 24 agosto del 2014, per raccogliere fondi appunto per la scuola, e ci è riuscito naturalmente, perché i due concerti sono andati esauriti, e il tutto registrato proprio nella scuola, Rangefield Secondary School. Il brano, come certamente saprete perché è bellissimo, famosissimo e strepitoso in qualsiasi salsa lo si ascolti, si chiama Moon Dance. E il 2024, ci ho dovuto pensare, è stato anche l'anno dell'esplosione dei cofanetti, ce ne sono stati di tutti i tipi, cominciare dai 20, tutti con tantissimi CD inseriti, cominciare dai 27 di Bob Dylan, che sono usciti in luglio se ricordo bene, poi ci sono stati i Camel, 29 addirittura, insomma, con dei prezzi naturalmente esosissimi, per cui per quel che mi riguarda vado proprio su quelli che sono i miei beniamini, e i miei beniamini, fra i miei beniamini, rientrano anche i Faces, grandissima band, non mi stancherò mai di dirla, Rod Stewart, Ronnie Wood, Ronnie Lane, Kenny Jones e Ian McLagan, sono i cinque che hanno fatto veramente delle grandissime cose. Per loro un cofanetto che si chiama The BBC, 8 CD più un Blu-ray, il tutto con registrazioni naturalmente effettuate in varie occasioni per la BBC, nella quasi totalità dal vivo. Infatti questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che è un super classico dei Faces, è stato registrato durante le John Peel's Sunday Concert al Paris Theatre di Londra il 17 febbraio del 1972. Il brano si chiama Stay With Me, loro sono Faces. E 9 luglio del 2023 i Blur suonarono due concerti al Wembley Stadium. Quello di domenica 9 luglio è stato pubblicato un doppio CD il 26 luglio del 2024, si chiama Live at Wembley Stadium e il classico della produzione dei Blur che ci siamo ascoltati si chiama semplicemente Song 2, canzone 2. non potevano mancare l'appuntamento annuale, sto ridendo perché so già che qualcuno mi prenderà in giro, non potevano mancare, dicevo, l'appuntamento annuale. King Crimson hanno pubblicato un dischetto molto molto accattivante che si chiama Sheltering Skies, che è stato registrato al Fréjus, all'arena del Fréjus in Francia, il 27 agosto del 1982, durante il tour nel quale King Crimson aprivano per i Roxy Music, tour che vedemmo anche qua in Italia qualche giorno dopo. Il brano che ho scelto per voi, sto andando molto velocemente perché ci sono ancora tantissime cose da ascoltare, e ho dimenticato di dirvi che oggi non ci sarà Recorded Today, la prima parte sarà dedicata a pubblicazioni uscite discografiche britanniche, la seconda a quelle statunitensi, nordamericane. E il Sheltering Sky, dicevo, è uscito il 6 di settembre dello scorso anno. Il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso si chiama Mate Kudasai, loro sono King Crimson. I don't know what to do. I know maybe I'm calling time. In my mind it's like I'm fading away. I can be washed ashore. Broken wings, it's so hard to believe Come on, sing it. Questo album, che consta di 3 CD e un Blu-ray, è stato pubblicato il 13 settembre del 2024, è stato predicato per essere, a mio avviso, uno degli album dell'anno, anzi l'album migliore dell'anno, però poi alla fine sono arrivati a chiudere e non c'è stata storia. Si chiama Flare on the Lens, loro sono Big Big Train, grande band progressive britannica che con molto orgoglio possiamo dire noi italiani vede alla voce, alla chitarra e alle tastiere Alberto Bravin, che è un grandissimo personaggio, un grandissimo musicista che arriva da Trieste. L'album è stato registrato al Cadogan Hall di Londra il 12 e 13 settembre del 2023. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Love is the Light. Molto velocemente, perché oramai siamo alla fine, ma ci sarebbero, come dicevo, tantissime cose ancora da ascoltare. Sono tutte cose vecchie, mi dispiace, ma pare che i gruppi più o meno nuovi non amino molto le registrazioni live. Infatti adesso ci andiamo ad ascoltare un signore che prossimamente farà il suo ultimo tour, lo farà al piano solo e sarà anche in Italia per diverse date. Si chiama Rick Wakeman, molti di voi lo ricorderanno principalmente con gli Yes, ma è stato anche con i Strokes, eccetera eccetera eccetera. Il buon Rick ha pubblicato un cofanetto con solo, si fa per dire, 4 CD che racchiudono i due set che ha fatto per due sere al Palladium di Londra, che comprendevano praticamente tutta la sua produzione solista, quella più normale diciamo, e alcuni classici degli esseri visitati. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, sempre per farla veloce, è uno dei suoi classici, viene da quella pietra miliare che si chiama The Six Waves of Henry VIII, e questo parla di Caterina di Aragona, Catherine of Aragon. Lui è Mr. Rick Wakeman. Thank you. si chiama Live at the London Palladium 2023, questo cofanetto quadruplo di Rick Wakeman. Il primo dischetto comprende tutto Six Waves of Everyday Eight e inizia appunto con questa Catherine of Aragon che ci siamo appena ascoltati. Ci sarebbero ancora tantissime altre cose, il tempo come sempre è tirannissimo, non tiranno. Cito per dire i Rolling Stones, che hanno addirittura due uscite lo scorso anno, Live the Wiltern e Welcome to the Shepherd Bush, un mini album, chiamiamolo così, degli U2, registrato a Dublino nel 93, Wedding Present con 1994, Live 1994, Dr. Field con Live in Caen in Francia e a seguire da Eric Wakeman dovevano arrivare gli Yes, che hanno ripubblicato per il 40° anniversario Talk con un intero concerto inserito, ma come dicevo non c'è tempo. Andiamo ad ascoltare adesso, per concludere questa parte dedicata alle isole britanniche del Best del 2024, ci andiamo ad ascoltare una band nuova che la critica sta osannando e anche il pubblico, soprattutto coloro che li vedono dal vivo. Purtroppo la sera del concerto qui a Bologna era una serata un po' particolare, anzi molto particolare, in parole povere era la serata dell'alluvione, per cui non sono potuto andare, molta gente anche che non è potuta andare, e coloro che c'erano sono dovuti scappare quasi praticamente letteralmente. Loro si chiamano Lancome, vengono da Dublino e a Dublino hanno registrato questo album che si chiama, guarda caso, Live in Dublin, al Vicar Street il 29, 30 e 31 maggio del 2003. Per forza di cose ho scelto il brano più corto che ci porterà alla fine di questa prima parte, si chiama Fugue, loro sono Lancome e ci sentiamo dopo la pubblicità. Your mind drift back to that night of the prom, and there I was kneeling by your side with my hand reaching up in a gesture of supplication for the red rickrack around the bottom of your white party dress. Valerie, you and I had just finished drinking a pint and a half of Romalar, and we were really ripped. Oh, Valerie, you and me, baby, tore to the core. You was my teenage queen and the idol of my dreams and everything, and I wanted to make it with you, and I made it with you, and you gave me the clap. La la la la la la la. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, The Best of 2024, il meglio dello scorso anno, diviso rigorosamente in due parti, visto che d'italiano non è che ci siano state grandi cose, un'uscita della Gang, ma era legato a un libro, per cui una cosa molto particolare. Prima parte dedicata alle isole britanniche, seconda parte al Nord America, e avrete sicuramente riconosciuto il grande Frank Zappa che insieme alle sue Masters of Invention il 23 luglio del 1968 era in concerto al Whisky a Go Go di Los Angeles. Ha registrato il concerto che però è uscito solamente lo scorso anno e che consta di tre CD. Il primo si concludeva con questo brano che ci siamo ascoltati, molto anni 50s, che risponde al nome di Valerie. Frank Zappa non si discute e non starò qua a perdere tempo, perché ci sono tantissime cose da ascoltare, ne parleremo magari diffusamente, perché tanto Frank Zappa chi per lui per meglio dire, purtroppo pubblica registrazioni live ogni due o tre mesi. E iniziamo dopo Frank Zappa con due bluesmen molto molto importanti, anzi il secondo direi praticamente un mito, ma anche il primo non scherzi. Il primo si chiama Eric Bibb, lui viene da New York City ma adesso vive a Stoccolma, e a Stoccolma ha registrato il suo album live che si chiama Live at the Scala Theatre, Stockholm. È stato pubblicato il 5 di aprile dello scorso anno, è stato registrato invece il 30 settembre del 2022. Il brano che ho scelto per voi si chiama River Blues, lui è Mr. Eric Bibb. Going down to the river soothes my soul just to watch it flow.

Grandissimo della musica blues, prima l'ho definito una leggenda, non sono io a definirlo così, ma chi ne sa più di me, ed è assolutamente vero, da tantissimi anni sulle scene, sempre con grande qualità musicale e grande feeling. Questo album, accreditato al Taj Mahal Sextet, si chiama Swinging Live at the Church in Tulsa. Tulsa è una città dell'Oklahoma e la church, che è nel titolo, non è una chiesa, anzi è una vecchia chiesa sconsacrata, nel quale Leon Russell, personaggio che spero tutti voi conosciate, ha installato il proprio studio. Leon Russell purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, ma in questo studio continuano a prodursi concerti e album. Questo concerto è stato registrato in una data sconosciuta, non c'è scritto assolutamente niente e anche le mie ricerche sono state assolutamente vane. L'album è stato registrato l'8 di marzo dello scorso anno e il brano che ci siamo ascoltati si chiama Betty and Dupree ed è un super classico naturalmente del blues che alcuni di voi ricorderanno anche nella versione di Mink DeVille o Willie DeVille, come volete. Come here, baby. Lui si chiama Robert Anthony Noonan, per gli amici Willie Nile, molti lo considerano il cantore per eccellenza di New York City, anche se lui in realtà è di Buffalo, sempre nello stato di New York però, è uno dei cosiddetti personaggi minori che però tengono alto la bandiera del rock in tutto il mondo, l'abbiamo visto anche qua in Italia qualche anno fa, addirittura, non addirittura, in un locale piccolissimo a Pieve di Cento. Questo album invece si chiama Live at Darryl's House Club ed è esplicativo del luogo in cui è stato registrato, a parte la città che si chiama Pawling, sempre stato di New York, il 3 settembre del 2022. Il brano che ho scelto per voi, visto che Willie Nile è considerato il cantore di New York, ci parla di New York di notte, New York at Night, lui invece si chiama Willie Nile. There's a hound dog howling at 53rd and Park. There's a cop car prowling in the 80s after dark. There's a red light blinking on 42nd Street. A party going on, you can hear the heartbeat. New York night, New York night. Everything's alright. It's New York night. Take a play. New York night. I went into the subway and it felt just like a dream. Saw a fella going by covered in whipped cream. Take a train to Grand Central on an overcrowded bus. There's room at any corner for every one of us. New York night. New York night. Come on, see the light. It's New York night. Take a bite. New York night. Electricity is flowing when the sun goes down. There are joints that are jumping all over this town. The city calls out like a freed of the soul. If you're feeling blue, you won't be for long. New York night. New York night. Johnny Blunt. Everything's alright. It's New York night. Take a bite. New York night. Hey, hey, hey. There's a wave going down on the Upper West Side. A taxi uptown, it'll take you for a ride. There's tentative color in black and white when you're out on the streets of the city at night. New York night. New York night. Everything's alright. It's New York night. Take a bite. New York night. Y'all tonight. Let me hear it, boy. I go down to the medicine show. go down to the medicine show. Grandi Dream Syndicate hanno pubblicato addirittura in febbraio, quasi un anno fa, questo Live Through the Past Darkly, che è una raccolta di brani live che ripercorre tutta la loro carriera. Quello che ci siamo ascoltati è stato registrato al Roxy di Los Angeles nel 1983 e si chiama The Medicine Show, uno dei loro grandi, grandi, grandi brani. How do you Naturalmente non poteva mancare l'appello Mr. Neil Young, lui è solito tirare fuori dai suoi archivi vecchi concerti e riproporli, ma in questo caso il concerto è praticamente nuovo, visto che è del 4 novembre del 2023 a Rivoli di Toronto in Canada. In quell'occasione lui rifece in versione live, naturalmente, un album del 1990 che si chiama Ragged Glory, però siccome anche Neil Young, in quanto a pazzia, non è molto molto lontano, ha cambiato i titoli. L'album Ragged Glory aveva dei titoli, questo album, che invece si chiama Fucking Up, che è stato pubblicato il 26 aprile, ha titoli completamente diversi. Infatti questo che ci siamo ascoltati su Fucking Up, il titolo dell'album, si chiama Heart of Steel, mentre originariamente, l'avrete capito, era proprio quello che dà il titolo a questo album, Fucking Up. Il tutto accreditato a Neil and the Horses, sarebbe a dire Neil Young and the Crazy Horse. Una delle sensazioni del circuito alternativo americano è un giovane ragazzo che si chiama Billy Strings. Lui è un fanatico e fautore, esecutore, musicista del bluegrass, questa chiamiamola branca del folk americano. Tipo, per chi l'ha visto, Dueling Banjos, ad esempio, di Un tranquillo weekend di paura. E lui suona la chitarra, il banjo appunto, e canta. Viene dal Michigan, ha fatto diversi album, fra l'altro ne è uscito proprio uno recentemente in studio, ma il 12 luglio ha pubblicato questo Live Volume 1. Sono tutti brani registrati qua e là per gli Stati Uniti, alcuni sono veramente molto molto lunghi, per cui anche qui ho dovuto fare forzatamente una scelta. Infatti questo brano, che si chiama Long Forgotten Dream, dura solamente 4 minuti e 36 ed è stato registrato il 22 settembre del 2023 al Renewal di Buena Vista in Colorado. Lui si chiama Billy Strings, il brano Long Forgotten Dream. Would you listen when the wind decides to whisper English fame? Will you heed the words within the winds that whisper it's too late? Would you see the reasons falling from the sky? Or the locust screaming madly as you turn around and die? Could you recognize some message too late? Have you felt the atmospheric friction churning up above? All the traits and descriptions seem to fit just like a glove. Can you see us scratching back through the seams? Crawling circles on our back with our dumbfounded expertise. Just the thought of this is riddled with disease. Rhythm of this song. Would you like to tag along with us? I know it won't be long. Could she take us back to somewhere you desire? Could she lead us to the doorway? Would you sit down by the fire? Would your eyes be sealed with love instead of hate? Can you hear the empty chambers of your head begin to spin? Scream for something else to carry your thoughts in. One foot before the other, let's begin. Potevano mancare l'appello nemmeno i Fish. Quest'anno hanno pubblicato un concerto allo Spectrum di Filadelfia del 2 e 3 dicembre del 1997, un box set di 6 CD, si chiama semplicemente The Spectrum 97, lo dico all'italiana, ed è stato pubblicato il 15 di marzo. Bouncing Around the Room, uno dei brani più corti che ho trovato, perché il tempo sta stringendo, anzi purtroppo dovrò tagliare clamorosamente Joe Bonamassa che arriva adesso, non prima però di avervi ricordato che vi siete beccati il meglio del 2024, the best of 2024, per quel che riguarda Città Fusicola Club, che è la trasmissione che va terminando e che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo. sempre sulle stesse frequenze, sempre su Radio Città Fujiko, e vi lascio in punto in compagnia di Joe Bonamassa, che il 21 giugno ha pubblicato questo concerto al Hollywood Bowl di Los Angeles in California, concerto dell'agosto del 2023, che si chiama semplicemente Live at the Hollywood Bowl. Joe Bonamassa. I wanna climb. Now I don't know about no law, don't see no crime. There ain't no reason, ain't no rest. I wanna get down to the road and get undressed. I can stand it. Why the run? Is it by the weight of the woman, weight of the gun? Got 15 minutes now, and I just don't care. I'm gonna take this over granted when I get back. Now all good things come in their time.